Giovani talenti. Giovani talenti di Sergio Nava. Se non trovano lavoro i giovani, l'Italia è finita. Buongiorno e ben ritrovati all'appuntamento con Giovani Talenti, voci dalla nuova immigrazione. Torniamo oggi con una puntata speciale di fine estate che chiude il ciclo di trasmissione degli ultimi 2 mesi e mezzo. Anteprima, Giovani Talenti prende il via con una frase del Presidente della Repubblica Napolitano intercettata questa estate nel Nord-Est, una delle maggiori aree esportatrici di giovani italiani all'estero. Se non trovano lavoro i giovani, l'Italia è finita, così Napolitano replicando a un giovane che tra la folla gli chiedeva cosa si può fare se il lavoro non si trova. Una generazione senza lavoro è una sconfitta futura per la patria e per l'umanità, gli ha fatto eco Papa Francesco. Per il pontefice è triste trovare giovani né studiano perché non possono né lavorano. Non possiamo essere rassegnati a perdere una generazione che non ha lavoro e per questo non ha dignità, dice. Chiosa l'economista Boeri, troppe situazioni di lavoro poco retribuito, poco garantito, poco tutelato per i giovani da contrapporre a quelle per il resto della popolazione, di fatto un invito alle persone di maggiore qualità ad andare all'estero. Noi aggiungiamo solo alcuni dati. A giugno il tasso di disoccupazione giovanile ha raggiunto il livello record del 43,7%, oltre 700.000 giovani disoccupati, leggera discesa di 8 decimali a luglio. E secondo l'OCSE gli under 25 italiani sono sempre più spesso disoccupati, mentre tra coloro che lavorano oltre la metà ha un contratto precario e meno di 2/3 saranno ancora allo stesso posto tra 12 mesi. Per l'Employment Outlook in Italia la disoccupazione giovanile è raddoppiata. Tra il 2007 e il 2013, tra i giovani senza lavoro aumentano i net. A fine 2013 erano il 22%. La quota di neoassunti con un contratto precario è al 70%, una delle più elevate tra i paesi OCSE. Precariato che, secondo il direttore della divisione del lavoro, Stefano Scarpetta, per i giovani italiani non rappresenta un punto di partenza, ma una trappola. Sempre secondo l'OCSE, l'Italia si trova nella parte bassa della classifica per i salari, è 20ª, mentre per la qualità del posto di lavoro si aggiudica valutazioni mediocri. Sullo sfondo si staglia un paese, il nostro, che resta 49esimo nella classifica 2014 della competitività stilata da World Economic Forum. La penisola si piazza alle spalle di Turchia, Malta e Panama e fa un soffio meglio del Kazakistan. Tra i punti deboli anche la ridotta efficienza del mercato del lavoro. E non ci resta quindi che ascoltare la frase della settimana, copyright del ministro dell'istruzione Stefania Giannini, nell'intervista rilasciata al sito di informazione europea unews.it. In una società che darà sempre più spazio a occupazione, diciamolo pure, anche dignità sociale a chi ha una qualificazione, una formazione in grado di partecipare all'azione sociale, a partire dai mezzi di comunicazione, a partire dalle relazioni sociali. Se tu non hai una generazione preparata, è chiaro che parti sconfitto e hai delle contrasti, delle contraddizioni interne anche di disagio sociale irrecuperabili. Eppure in questa situazione di profondo disagio c'è un'Italia, quella delle rendite di posizione e degli interessi di casta, che resiste. Quella appena conclusa è stata anche l'estate dei professori universitari, perché non definirli baroni, che hanno nuovamente alzato la voce contro l'ipotesi di pensionamento forzato a 68 anni. Ed è stata l'estate dei dipendenti della Camera, che hanno protestato contro l'imposizione di un tetto ai loro stipendi. Operazione sacrosanta, considerato il profondo disallineamento tra le loro retribuzioni e quelle del resto del paese. Un paese nostro che si conferma il regno delle lobby e delle tribù. Anche per questo, ricordiamolo, i nostri migliori giovani se ne vanno. Ma dove vanno? A tracciare una mappa quest'estate ci ha provato il settimanale Panorama in un'indagine realizzata col contributo di società specializzate. Oltre 1.000 le opportunità di impiego per italiani all'estero si è scoperto. La mappa dei paesi più ambiti vede in testa la Germania, con i principali settori di impiego nell'ingegneria meccanica, la consulenza di prodotti alimentari, la chimica e la progettistica di software. Nel Regno Unito, tra gli impieghi dove gli italiani sono più richiesti, spiccano gli analisti finanziari, i consulenti del settore turistico e i manager generici bilingue. In Svizzera invece vengono ricercati progettisti in ambito iCloud, consulenti legali e addetti alla qualità. Infine la Francia, dove i comparti per eccellenza riguardano la moda, la chimica e la microbiologia. Iniziamo allora, dopo questo breve o lungo riassunto degli ultimi 2 mesi estivi, la nostra anteprima Giovani Talenti. Lo facciamo con un'intervista relativa a una ricerca che ha fatto discutere. Non sempre mobili è l'indagine dell'ISFOL che ha studiato la mobilità geografica dei dottori di ricerca italiani. È stata presentata a metà luglio e ha sollevato il velo sulla situazione del nostro capitale umano più qualificato. Ce la descrive Valentina Gualtieri, responsabile dell'indagine. L'indagine che abbiamo condotto appunto nel 2012 si focalizza sui dottori di ricerca che hanno conseguito il titolo di studio nel 2006 e sono stati intervistati quindi a distanza di 6 anni dal conseguimento del titolo, e oltre a chiedere informazioni riguardanti percorsi di mobilità e le scelte effettuate in questi 6 anni, siamo andati a caratterizzarli per cercare di comprendere al meglio qual è la loro qualità del lavoro. E cosa emerge? Dall'indagine emerge fondamentalmente che non sono tantissimi i dottori di ricerca che sono emigrati all'estero, nel senso che 400 il totale dei dottori di ricerca che hanno conseguito il titolo nel 2006, al 2012 il 7,5% vive in uno stato non italiano. Quello che emerge è che comunque la qualità dei dottori di ricerca che sono migrati all'estero è decisamente elevata, e quindi l'Italia ha perso delle eccellenze importanti che avrebbero potuto aiutare la crescita del paese. E se posso riassumere, quindi non sono tanti numericamente, ma la qualità, il capitale umano è percentualmente più alto. Questo come l'avete stabilito? Questo è percentualmente più alto perché abbiamo visto che comunque le persone che sono emigrate all'estero hanno in generale un curriculum migliore di quelle che sono rimaste in Italia, sia come voto di laurea, sia come voto preso durante gli esami, sia come proprio capacità dichiarate e come abilità. Ma soprattutto abbiamo visto che le persone che a distanza di 6 anni sono migrate all'estero hanno maggiori probabilità di essere occupate, hanno redditi più elevati. In media noi abbiamo misurato che all'incirca un dottore di ricerca che risiede all'estero ha all'incirca il 50% di reddito in più. Cioè la metà dello stipendio di un dottore di ricerca resta in Italia, è tanto, più 50%, in termini proprio numerici di denaro, di stipendio? Parliamo in media, ovviamente, parliamo di un dottore che rimane in Italia guadagna all'incirca 20.000 euro, un dottore che migra all'estero a 6 anni di distanza guadagna all'incirca 30.000 euro, quindi ci sono circa 10.000 euro di differenza nel reddito netto annuo. Quando dite che sono anche più occupati, in termini percentuali? Diciamo che il tasso di occupazione di questa popolazione, i tassi di occupazione sono in generale elevatissimi, infatti in media tutti i dottori di ricerca hanno un tasso di occupazione del 92%, che è veramente molto alto, però notiamo delle differenze in termini di mobilità, perché chi è all'estero ha un tasso di occupazione sempre medio del 96%, chi è definito immobile in Italia, cioè che non ha attuato processi di mobilità, ha un tasso di occupazione del 91%. Ma oltre, diciamo, a queste variabili oggettive di tipo strutturale, quello che abbiamo notato, che è molto importante secondo me, è anche che i dottori che vivono all'estero sono più soddisfatti del lavoro, delle condizioni di lavoro, e soprattutto più dei dottori italiani reputano il lavoro attinente agli studi fatti e motivante, adeguato alle loro capacità. In generale si profila proprio una situazione migliore che descrive quindi il dottore di ricerca che si trova all'estero molto più soddisfatto per quello che il mercato gli offre rispetto a quello che è stato l'investimento che il dottore ha fatto. In Italia quello che si configura è che il dottore di ricerca italiano sì, si colloca sul mercato del lavoro, ma non si colloca sul mercato del lavoro italiano in modo ottimale. E tra chi è all'estero, insomma, abbiamo detto che sono più felici, più soddisfatti, più occupati, guadagnano di più. Tornerebbero in Italia con queste condizioni così favorevoli fuori? Non tornerebbero in Italia, infatti il dato, diciamo, abbiamo proprio posto questa domanda ai dottori di ricerca emigrati all'estero per comprendere sia se tornerebbero in Italia e sia che cosa dovrebbe cambiare in Italia per farli tornare. E quello che è venuto fuori è che all'incirca il 60%, il 57,8% dei dottori di ricerca emigrati all'estero non ha nessuna intenzione di tornare in Italia, e Quelli che invece pensano di voler ritornare in Italia subordinano il loro rientro a una valida opportunità di lavoro. Valida opportunità di lavoro che loro esplicitano proprio nel un lavoro di qualità, un lavoro adeguato ai loro studi, un lavoro che valorizzi il percorso che loro hanno fatto e sia attinente alle materie da loro studiate. Quanto è alta invece la propensione dei dottori di ricerca rimasti in Italia a emigrare? Il dato sulla propensione a migrare fuori è abbastanza allarmante, infatti questo dato io lo collegherei con la bassa quota di dottori che sono migrati, lo va letta con l'alta quota dei dottori che hanno intenzione di migrare, infatti il 45,5% dei dottori presenti in Italia nel 2012 ha dichiarato di avere intenzione di migrare verso l'estero nei 5 anni successivi. Non vogliono migrare per cercare un lavoro, perché anche in Italia comunque a questa particolare fascia di popolazione il lavoro viene offerto. Loro vogliono migrare per cercare un lavoro di qualità. E oggi tornano a farci compagnia, come un anno fa, per l'anteprima di Giovani Talenti, i nostri esperti in emigrazione contro esodo, che negli ultimi mesi ci hanno spiegato, attraverso la rubrica mensile Andata e Ritorno, come emigrare e come fare rientro in Italia. Allora, buon pomeriggio a Lorenzo Pompei, che è buongiorno. Qui con me, e buonasera, inoltrata, visto anche il fuso orario, ad Aldo Mencaraglia. Buonasera a tutti. Aldo e Lorenzo, allora, un anno dopo invertiamo le parti. Aldo, torneresti oggi, anno 2014, in questa Italia? Lo trovi un paese più attrattivo e interessante rispetto a un anno fa? Interessante lo trovo sempre, ci mancherebbe. La questione veramente personale mia è che sono andato via 20 anni fa, quindi in un anno non è che sia cambiato molto da causare il mio ritorno. Io ormai sono lontano e dubito che tornerò. Sei molto lontano, in Australia, ricordiamolo. Lorenzo, tu all'estero hai vissuto per diversi anni, poi sei rientrato. A te pongo invece la domanda opposta. Te ne andresti oggi? Rifaresti le valigie per l'estero o sei contento di essere tornato qui? La risposta è entrambe, nel senso contentissimo di essere tornato e nell'ottica di circolazione sarei anche pronto a ripartire, perché come abbiamo detto diverse volte nel passato le frontiere in Europa sono oramai liquide, quindi sta cambiando tutto molto velocemente, però noi dobbiamo diventare un paese che attrae e che la smette di esportare solamente. Aldo, torno da te per una domanda più tecnica da osservatore. Grazie a Italians in Fuga ti chiedo come hai visto cambiare il volto della nostra emigrazione negli ultimi 12 mesi. Purtroppo sta diventando un po' più disperata, tra virgolette, nel senso che l'economia purtroppo non pare voler ripartire e quindi tante persone che speravano, volevano rimanere in Italia, adesso stanno veramente pensando che non ci sia alternativa. È quello che mi scrivono in tanti, purtroppo il tono è sempre più pessimista. Giovani Talenti. Bentornati a Giovani Talenti, il programma di Radio 24 che vi racconta le storie dei giovani italiani emigrati per affermarsi professionalmente. In questa anteprima Giovani Talenti sono tornati a trovarci Aldo Mencaraglia di Italians in Fuga e Lorenzo Pompei della Fonderia dei Talenti. Con loro tiriamo le somme a un anno dall'avvio della rubrica Andata e Ritorno sul fenomeno della fuga o circolazione dei talenti. Riprendiamo allora l'ascolto. Giovani Talenti. Lorenzo, dal tuo osservatorio della Fonderia hai cercato in questi mesi di avviare un movimento di connessione, di ritorno verso il paese. Hai visto un feedback? Da chi sta all'estero, ovviamente. Sì, probabilmente sì, nel senso toni disperati si trovano sempre anche su tutti i forum. L'impressione che ho avuto, appunto, c'è una circolazione di talenti, quelli più giovani, parlando di coloro che hanno meno di 30 anni, alla ricerca di dottorati. Ecco, questa è la cosa che mi ha stupito, che probabilmente è un trend degli ultimi anni, forse anche derivante dalla crisi e non solo in Italia, in cui, dato che la ricerca in Italia comunque stenta ancora a accettare i dottorandi, c'è una ricerca spesso all'estero per quel tipo di profilo, ecco, per più opportunità. Tra l'altro, Lorenzo, tu hai iniziato una tua personale battaglia per non far morire la legge contro esodo, che ricordiamo fornisce importanti incentivi fiscali ai giovani che scelgono di tornare. Allora, gli effetti finiranno il 31 dicembre 2015, il che ne limita già fortemente fin d'oggi il raggio d'azione. Ci sono novità dopo l'appello che hai lanciato sul sito, di cui abbiamo parlato anche negli ultimi mesi? Sì, il disegno di legge depositato l'anno scorso in Parlamento è sempre valido e c'è un'intenzione con l'attuale segreteria tecnica del ministro Padoan di introdurre una modifica alla legge per protrarne la scadenza. Di quanto? Passare, non so ancora degli anni, inizialmente l'idea è di passare al 2017, ma penso che comunque venga proposto dal parlamentare che inizialmente aveva proposto la legge, che poi ha depositato il progetto di legge per estenderla, inizialmente si parla del 2017, quindi comunque... Dal 2015 al 2017 comunque altri 3 anni di respiro. Sì, penso di più, perché visto che era il 2013, quindi era l'idea di fare 4 anni in più, quindi se è depositata adesso sarà... Tienici aggiornati, esatto, ovviamente. Aldo, ci dai qualche dritta agli aspiranti migranti aggiornata, ovviamente, in un mondo che cambia di continuo? Quali sono i paesi in Europa e fuori dall'Europa su cui puntare, secondo te? In Europa rimangono quelli dell'Europa del Nord, dove le economie stanno andando meglio, non, magari non benissimo, però meglio rispetto a quelle dell'Europa del Sud e diciamo Spagna e Italia, purtroppo. Per quello che riguarda magari i lavori, sempre di più lavori di stampo informatico e tecnico, quindi se qualcuno sta pensando di riqualificarsi, quelli sono i rami che io consiglio di perseguire. Lorenzo, ne abbiamo parlato anche nelle ultime settimane quando ci siamo sentiti e lo abbiamo anche accennato poco fa, cioè è forse giunto il momento di passare dal concetto di fuga a quello di circolazione dei talenti, uscire insomma dal cliché e guardare il mondo non come a un insieme di staterelli, ma come a un tessuto integrato dove vince chi attrae i migliori, esportando i propri migliori giovani per formarli all'estero e poi attraendo menti e investimenti internazionali. Questo è il trend del momento. L'Italia la vedi ragionare e muoversi in questa direzione? L'Italia a livello statale forse ancora stenta, quindi quando intendo statale intendo a livello governativo. Ci sono sicuramente iniziative portate avanti da istituti di ricerca, università, aziende. Manca, secondo me, come fa magari un paese vicino come la Francia, dei progetti di respiro nazionale, ma questo appunto è una caratteristica italiana che spesso le regioni o le aziende fanno un po' per conto loro. La circolazione sì, tanti anni fa lessi un libro di un francese di nome Attali, parlava di ipernomadi, ora coloro che vivono contemporaneamente in diversi paesi, che quindi hanno magari affetti in un paese e lavorano in un altro, questo sicuramente è un po' il futuro, non solo dell'Italia, di tutti i vari paesi europei, data la vicinanza geografica, almeno per l'Europa, e di quello che sta negli ultimi anni, le infrastrutture, quindi autostrade piuttosto che alta velocità, piuttosto che aerei low cost, che avvicinano le persone. E anche noi cercheremo di portare avanti questo concetto di circolazione ancora più di quello della fuga, perché anche noi cerchiamo di tenerci aggiornati rispetto a un mondo che cambia. Aldo, ci fornisci un piccolo antipasto della rubrica andata per la stagione che verrà, ricordiamo, ogni primo sabato del mese? Quello che affronteremo sono consigli basati non solo sulla mia esperienza, ma anche di quella delle centinaia di persone che ho intervistato in questi anni, e fondamentalmente come prepararsi all'espatrio, come trovare lavoro e contatti all'estero, e poi anche e soprattutto come ambientarsi, perché quello è forse l'ostacolo maggiore. Il trovare lavoro è relativamente più facile, ambientarsi e diventa un attimino più difficile. Quindi condivideremo tutte le esperienze che abbiamo raccolto in questi anni con tutti i consigli relativi. Lorenzo, invece per te è un congedo, si chiude qui il ritorno, anche perché insomma sei sempre più preso da una tua startup, Mario's Way, che stai portando avanti. Però va avanti la Fonderia dei Talenti, il progetto appunto di riconnessione con chi è all'estero, e per questo ti chiedo anche un po' come intendi farla evolvere e dove intendi puntare. Sì, la Fonderia dei Talenti continua il suo percorso. Ci siamo resi conto in quest'anno di esperienza che proprio a causa di questo, anche delle nuove tecnologie, quindi l'introduzione di smartphone, che forse la Fonderia sarebbe stata forse più utile, diciamo, alcuni anni fa, e oggi va forse ripensata in una maniera più vicina alle tecnologie attuali, quindi per esempio l'introduzione di un'app. Comunque l'esperienza andrà avanti, cercheremo una partnership con probabilmente una fondazione già esistente in Italia che persegue un po' gli stessi fini, in maniera che comunque il brand, il marchio della Fonderia dei Talenti vada avanti anche per il 2015. Anche se non ci sarà più la rubrica ritorno, tienici comunque aggiornati, ovviamente. E prima di chiudere chiedo sia ad Aldo che a Lorenzo di lanciare un messaggio di consiglio o di incoraggiamento ai nostri giovani ascoltatori. Allora, quale rotta di navigazione indicate per i prossimi mesi? Cominciamo con Aldo. Il mio consiglio è soprattutto cercare di capire veramente cosa volete fare, e non dico che l'estero sia necessariamente la soluzione ai vostri problemi in Italia, anzi, però se capite meglio se veramente volete andare all'estero e se l'estero faccia per voi, risolverete tanti problemi a monte, perché spesso incontro e anche intervistato tante persone che sono andate all'estero e poi si sono accorte che in realtà volevano stare in Italia. e sono tornate. Quindi veramente capire le vostre motivazioni e ciò che sta dietro al vostro desiderio di andare all'estero. Lorenzo. Aldo mi ruba le parole di bocca, perché stavo proprio riflettendo alla stessa, una risposta simile, in due punti. La prima, più per chi sta in Italia, cercare di guardarsi intorno, perché non è detto che in Italia non ci siano possibilità. Io stesso, appunto, con la mia esperienza di startup Mario Way, ho visto che comunque c'è voglia di fare, ci sono competenze, intelligenze, vanno sapute cogliere, quindi qui a Addis Abeba, a New York, le possibilità ci sono, vanno viste e guardate, e quindi di non la mia raccomandazione è la prima, di non cadere nel calderone della semplice lamentela. La seconda, per chi torna dall'estero e viene in Italia, è di imparare di nuovo a riscoprire come lavorano gli italiani, soprattutto di esigere chiarezza e di non esitare a dire no, perché in Italia, forse anche erede di una tradizione storica millenaria, basta con gli yes men. Esatto, soprattutto persone che portano le loro competenze e il loro modo di pensare. Esatto, e soprattutto imparare a dire no. E siamo giunti ad Expats, lo spazio di giovani talenti dedicato al mondo della nuova emigrazione professionale. Oggi, in questa anteprima di Giovani Talenti, vi facciamo ascoltare le lettere che ci avete inviato nel corso delle settimane estive, rispondendo alla discussione attiva da giugno sul destino degli ordini professionali. Stando alle vostre risposte, la critica verso la sopravvivenza di queste corporazioni è molto forte. C'è chi ne chiede l'abolizione tout court, chi invece li difende e ci attacca, chi infine ne auspica una radicale riforma. Sentiamo allora cosa ci avete scritto. L'eliminazione degli ordini professionali è, secondo me, uno specchio per le allodole. Gli ordini professionali esistono in molti paesi del mondo per garantire al pubblico che i membri di tali professioni abbiano un certo livello di professionalità e che siano regolamentati così da evitare comportamenti non etici. Eliminare gli ordini professionali eliminerebbe anche queste garanzie e sono sicuro che ciò non sia un beneficio per il pubblico. Il problema in Italia non è l'esistenza degli ordini professionali, ma l'abuso che viene fatto nell'accedere a tali ordini. Ci sono almeno tre livelli di abuso. Il primo avviene al momento di accedere al tirocinio, il secondo al momento dell'esame, il terzo nel numero limitato consentito per certe professioni. Accesso al tirocinio. Questo è di solito l'ostacolo più arduo, dove essere figli di aiuta. In Italia, secondo me, occorrerebbe introdurre l'obbligo di pagare uno stipendio adeguato ad ogni tirocinante. In questo modo si forzerebbe chi assume a selezionare i migliori, siano essi figli di o no. Per quanto riguarda l'esame, di nuovo, si tratta di evitare che il candidato sia identificabile durante il processo, per evitare che il nome prevalga sui meriti. La soluzione per me è avere una commissione giudicante completamente indipendente da coloro che gestiscono l'ordine professionale. Totale anonimità dei candidati, eliminazione di qualsiasi esame orale. Infine, il numero chiuso. Ovviamente questo è l'ostacolo principale di accesso a certe professioni, irrilevante per garantire la qualità dei membri dell'ordine ed elimina la competizione. La soluzione è semplice: eliminare il numero chiuso. Simone. Abolendo gli ordini si eviterebbe in parte il problema parenti-amici, ma temo che se li abolissimo sicuramente ci si inventerà altre maniere per accontentare i propri amici. Forse si potrebbero sostituire gli ordini con una sorta di certificazione europea che garantisca comunque la formazione continua e dia una parvenza di indipendenza. Marco. Credo che l'abolizione dei tanti ordini potrebbe rendere il mercato del lavoro più accessibile. Inoltre la quota di iscrizione è un balzello inutile. Esami e concorsi dovrebbero essere già una garanzia delle capacità del professionista, oltre che l'eventuale esperienza maturata sul campo. Per me gli ordini sono inutili. Davide. Sono una professionista che non appartiene a un ordine professionale, ma a un'associazione riconosciuta. Ho 55 anni, sono a favore dell'abolizione degli ordini professionali, in quanto nel corso della mia carriera ho riscontrato in molte occasioni come non garantiscano né migliore formazione degli iscritti, né migliore tutela ai clienti. I giovani che intraprendono una professione sono molto spesso sfruttati dai dominus e non viene data loro la possibilità di esprimere appieno le proprie capacità. Patrizia. Gli ordini professionali sono stati destinatari di più di un intervento del legislatore negli ultimi anni, per cui si è giunti a un provvedimento di riforma a firma del ministro Severino. Se ancora c'era il bisogno di precisarlo, il decreto legge del governo Monti ha ulteriormente ribadito che non possono essere poste dagli ordini limitazioni all'accesso. Se anche non ci fossero gli ordini professionali,